Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia l'ideologico quotidiano. Una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti per la cortese attenzione e grazie a Cristiano Valli per la regia e per essersi ancora prestato in sostituzione dell'amico Oliva che dovrebbe essere ormai sulla via del ritorno. L'appuntamento rimane confermato a domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata.